Wah, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, one. Two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telesco. Anche se siamo molto amici e conosco tutte le tue vicende artistiche e musicali, vorrei fare una cosa istituzionale e presentarti come meriti, Rita. Va bene, ok. Lo faccio, no? Guarda, anche perché ho trovato le informazioni, sai dove? Su Wikipedia. Ho detto fammi andare a vedere su Wikipedia che cosa dicono della mia amica Rita Marco Turli. Allora, allora te lo dico io, hanno scritto qui. Allieva del Conservatorio Santa Cecilia e del Conservatorio Licinio Refice. Sorella della cantante Carla Marco Turli. Questa non è male, anche, che hanno scritto certo. Anche di Carla. Mi sembra giusto. Rita Marco Turli comincia a suonare professionalmente all'interno di piccoli gruppi negli anni 70. E questo non è bello, perché già si capisce. Vabbè, ma tu hai già detto che siamo vecchi amici, quindi vabbè. Già siamo... Allora, comincia a suonare professionalmente in piccoli gruppi negli anni 70 e successivamente inizia a collaborare con svariati artisti internazionali, quindi salta completamente Wikipedia tutte le suonate che ci siamo fatti da ragazzi con tutti gli amici italiani. Hanno tolto non serve a niente. Andiamo avanti e vediamo. Però, diciamolo, quanti anni avevamo? 16 anni? 17? Beh, 17, 18 anni, lasciamo perdere, va. Allora, andiamo a vedere artisti internazionali. Suona con Chet Baker, e non è male questo, John Christensen, Palle Danielson, Peter Erskine, Steve Grossman, Joe Anderson, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metini, Sal Nistico, Michel Portale, Enrico Rava, Dewey Redman, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Noah, Norma Winston, e fine qui. Ci siamo, vado avanti? E vado avanti, ok. Nel 1987, cioè quando iniziò per esempio Doc, no? Nel 1987 viene votata la Marco Turli come miglior nuovo talento attraverso un sondaggio della rivista Musica Jazz. Bene. Ma vado avanti, ok? L'anno seguente si trasferisce in Svezia, dove rimane fino al 1992. Tornata in Italia, collabora fra gli altri con Ambrogio Spanagna e Pino Daniele. Nel 96 accompagna Pat Metini in un'esibizione al Festival di Sanremo, e questa me la devi ricordare, ok? E ne parliamo dopo. Più recentemente ha partecipato alla realizzazione del film Basilicata Coast to Coast, che ha vinto anche un sacco di premi, e qui li riporta tutti, per il quale si è occupata della colonna sonora. Volevo vedere, certamente non di qualcosa, fatto, non è recitato. Non ho fatto l'attrice. Ok, colonna. Grazie a questo lavoro la Marco Turli ha ricevuto il Ciak d'Oro nel 2010, il Nastro d'Argento alla migliore colonna sonora nello stesso anno, il David di Donatello per il miglior musicista nel 2011, prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento, e il premio Top Jazz 2011 come miglior artista del jazz italiano secondo la rivista Musica Jazz. Nel febbraio 2013 è membro della giuria di qualità della 63esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Praticamente per fare la tua presentazione ho già rubato tutto lo spazio di questa prima parte del soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Telesforo e da Rita Marco Turli. Buon pomeriggio. Quindi, dopo tutte queste cose, sei pronta per il pensionamento? No, aiuto, ti prego, no, morirei. Penso che se non posso andare avanti, studiare, continuare a ricercare, muoio. Rita Marco Turli è ospite del Soundcheck e noi siamo ospiti di questa bellissima casa studio nella campagna del Rietino, si dice Rietino? Del Rietino, in realtà noi qui siamo già in Umbria, però proprio al confine. Alta Sabina, dai. Ecco, Alta Sabina, quindi fra un po' proveremo anche l'olio che fai. Tu fai olio e marmellata. Non l'ho provato, è appena fatto. Eh sì, perché i musicisti si devono nutrire e ascoltare musica. Allora, io intanto ti ho fatto una bella presentazione, così come vengono fatte ai grandi artisti, e fra un po' torniamo a parlare della tua carriera, della tua casa, della tua musica e del tuo bellissimo pianoforte qui al Soundcheck di Radio 24, e ti voglio servire su un piatto d'argento uno dei tuoi pianisti di riferimento, che è Bill Evans, in una sua composizione intitolata Waltz for Debbie, qui da un disco di un campione del jazz come Julian Conobal Adderley. Questo è il Soundcheck di Radio 24 con Rita Marco Turli. Thank you. Bill Evans accompagna nella sua famosissima Waltz for Debbie Julian Conobaladerly. Allora, due cose velocissime su Bill Evans: quanto è stato importante per te e per il jazz? Secondo me per tutti i pianisti, secondo me, perché è stato sicuramente il primo che ha inventato l'interplay nel jazz. Cioè, che vuol dire interplay? Spieghiamolo, nel senso che appunto nel jazz spesso c'è un solista che suona una ritmica che accompagna, per cui no, la ritmica fa l'accompagnamento. In questo caso si suona tutti e tre insieme, cioè ci si ascolta, e l'interplay è proprio quello che si dialoga, non c'è un solista, sono tutti e tre solisti, ma nello stesso modo si suona insieme, ci si ascolta. E questo è un regalo che voglio fare alla mia amica Rita Marco Tulli, al suo pianoforte. Il maestro Aldo Ciccolini, maestro italiano, eccellente strumentista, specializzato proprio nell'interpretazione dei grandi pianisti francesi, in un classico di Erik Satie. Lo posso dire, un classico di Erik Satie? Beh sì, forse anche il più famoso, il più noto. Allora, tu hai una pronuncia francese sicuramente migliore della mia. Questo era Trois... Gymnopédie lente e dolorosa. Lenta e dolorosa. Tu l'hai studiato Erik Satie, Rita? Ma questa esattamente questo brano sì, perché è uno dei miei favoriti. Peraltro ti ringrazio di avermi dedicato questo pezzo, anche perché gli impressionisti sono quelli più amati anche da me, dal punto di vista anche armonico, devo dire. Ravel, Debussy, Satie sono fan. E anche dei musicisti di jazz contemporanei. Certo che sì, infatti la contaminazione, il jazz in realtà è una contaminazione, per cui ritmo africano ma armonia europea, e quindi assolutamente c'è tutto nel jazz. È un linguaggio riassunto di tante cose, secondo me. Adesso si parla di jazz, ma insomma noi vorremmo parlare di musica, non facciamo distinzione e non mettiamoci etichette. Sono molto contenta di questo. Tu hai iniziato a studiare il pianoforte a 5 anni. Sì. Perché? È stata una cosa naturale o un'imposizione di famiglia? No, non imposizione, però a casa mia si respirava musica, perché mio padre è un tecnico del suono che lavorava all'RCA, per cui mia mamma comprò questo pianoforte e per me il pianoforte è diventato il mio gioco favorito. Io mi ricordo gli studi della RCA, li ho visitati anch'io, poi adesso purtroppo non esistono più, ma tu li frequentavi e quindi andando a trovare papà al lavoro hai anche incontrato gli artisti che bazzicavano in RCA, certo, in quel periodo? Sì, ma tutti, guarda, mi ricordo appunto Rita Pavone e Gianni Morandi che alla Befana ci davano i premi, piccolissimi, loro erano Nada, i Rox, di tutto, Patti Bravo, qualsiasi, tutti quelli che erano RCA, De Gregori, Baglioni, erano tutti RCA. E tu eri affascinata da questi signori? Assolutamente sì, da questo mondo, assolutamente, divertente per me. Poi vedere, no, lui registrava anche tante colonne sonore, Nino Rota, Ennio Morricone, Trovaglioli, Piero Pici, tutti, per cui vedevo anche i film, era molto molto sicuramente stimolante. E pensavi allora che un giorno poi ti saresti ritrovata magari con Ennio Morricone? Ma hai lavorato con Ennio Morricone? Pensa che sì, quando ero piccola, ma sai che cosa facevo? Con mia sorella abbiamo fatto un film dei cori. Noi tre. Tua sorella, la sorella di Rita, Carla Marco Tulli, è una bravissima cantante di jazz, anzi io la ringrazio tanto perché mi portò a lezione di canto lirico dalla signora Lucia Vinardi, dalla sua insegnante, dove io portavo gli spartiti bebop. Fantastico, lei cantava in lirica. Lei era molto incuriosita dallo sketch, dalla sillabazione vocale, poi insomma io ho preso un'altra strada, non ho continuato. Il ritmo sotto tua e lei sorella, cantava l'opera, perfetto. Tua sorella è stata molto più brava di me perché si è diplomata, io invece ho fatto il lavoro. E va dai, ma che lavoro, te sei un artista, no? Non lavoro, non lo chiamiamo lavoro. Allora Rita, facciamo un salto, quindi Ennio Morricone, in qualche modo la colonna sonora, poi è tornata perché ti sei ritrovata a scrivere musica per film. Era uno dei sogni in realtà, alla fine tutto sommato era uno dei miei sogni, perché il cinema è la mia seconda passione in assoluto, perché non c'ero mai riuscita, avevo fatto un disco nel 96 dedicato a François Truffaut che era sul cinema, ma mai avevo fatto una colonna sonora, per cui Rocco mi ha dato questo piacere, questo onore. Rocco Papaleo, adesso fra pochissimo parleremo anche della colonna sonora di Basilicata Coast to Coast e per anticipare l'argomento ti voglio far ascoltare una rivisitazione dello stesso Quincy Jones della vecchia colonna sonora di Ironside, qui riproposta in chiave contemporanea con rapper e musicisti tipicamente hip hop, qui al soundcheck di Radio 24. Oh, oh my god, oh, here it comes. Yeah, here it comes. Yeah. One, two, three, yeah. Soundtrack to my life. We gon' bounce back through my life, doing it bright. Yeah, yeah. Taking the light. Way back in 76, my household stayed filled with a heavenly mix. The music was a blueprint for you to fix. What's wrong with your life? We abused to fix. We confused to win. Just entertainment. Lifestyles of the young, black, rich, and famous. The pictures painted. Let me take you back in the day with the count of the Duke for the Ray. My favorite song, my Sarah Vaughan, which hit the stages. Divine one with Chris and Jones to play with. Dizzy Gillespie and Miles Davis. Navigator Caesar, smiling faces. It's the soundtrack to my life. We gon' bounce back through my life. Doing it right. Coming like a morph to the light. The cops come in the heat of the night. And they read them, they rise. Take a hit and we bleed through the night. And we still in the street when we fight. Yeah. His tunes ring in my ears. The soundtrack of my years. Kicking around him ever since I found him. This man is at his way to me. Let's get it. I was born later on to the day I'm going. I know somewhere they play my song. Word is born with no music, I would die inside of me. Paralyzed like Einstein, yeah. I walk in and they claim a theme, and I'm way too fresh and clean. I mean, it's foreign, yo. The strong flow tighter than cornrows. Follow anywhere the song goes, let the horn blow. Oh, I like that right there. Oh, yeah. Everybody go. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. This is mommy sitting in my pop's crib, listening to like some Freddie Hubbard, some Cuba Laws. So Quincy Jones. Oh, Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica.